Oh, adesso, dopo tutti questi bei discorsi, finalmente, innanzitutto ringrazio Carlo Casti, governatore di Slow Food Italia, per essere qui e per aver accettato di essere qui, nonostante magari, cioè, insomma, è stato coraggioso, perché comunque immagino che molte delle persone che sono qua gliene vogliono dire. Un po' di, vogliono almeno avere delle spiegazioni. Io sintetizzo la domanda così: ma perché Slow Food ha messo quella lumachina lì sul discorso dell'Expo? Perché fa parte del comitato scientifico dell'Expo Slow Food? Dopo tutte le cose che ci hanno raccontato di questo Expo, che mi sembra una roba che va non proprio slow, ma va proprio così, come mai? Allora, non è stata messa nessuna lumachina, è stato chiamato a titolo personale, ovviamente come presidente di Slow Food Internazionale, il presidente Carlo Petrini come saggio, perché desse un contributo a costruire questo evento. Quindi non è stato messo nessun cappello sopra. Non abbiamo sposato niente, semplicemente abbiamo contribuito con tutte le contraddizioni del caso a costruire uno slogan che rimane uno slogan, che è solo uno slogan, con una scatola vuota dove andremo a vedere. Cioè, noi come metodo da quando è nato Slow Food utilizziamo la degustazione prima di bere, annusiamo, guardiamo, assaggiamo, se non ci piace lo buttiamo via. Questo lo facciamo sempre. Prima di questo incontro mi è stato offerto un vino di cui mi dicevano gran bene, l'ho semplicemente annusato e l'ho buttato via. Nonostante tutte le lodi che si sono fatte, questo è il nostro modo di affrontare anche questo problema. Noi non abbiamo nessun ritegno a dire che ci vogliamo vedere dentro, senza problemi. Con la nostra faccia ci mettiamo la nostra faccia, ci mettiamo in contatto con tutti. Siamo ben felici di venire qui. Qualcuno mi diceva vai nella fossa dei leoni. No, io qui a Leoncavallo sono sempre venuto, a Critical Wine sono sempre venuto, ho sempre ammirato tutto il lavoro che è stato fatto, che viene fatto proprio sul vino e sul cibo. Con Gigi Veronelli eravamo amici per la pelle, quindi abbiamo appoggiato sempre il suo lavoro, non abbiamo nulla di cui vergognarci. Poi nelle cose ci entreremo, non vogliamo fare la foglia di fico di niente, vogliamo semplicemente vedere se quella parola nutrire il pianeta ci riguarda, visto che noi siamo nati per parlare di educazione del gusto, dell'educazione alimentare, della qualità del prodotto, del rapporto con l'agricoltura, della centralità dell'agricoltura. Siamo quelli che hanno inventato, mutuandolo da un altro, lo slogan mangiare è un atto agricolo. Quindi non è che siamo nati ieri, sappiamo benissimo che ci sono delle contraddizioni enormi, ne parlavamo prima con il sindaco, magari adesso lo ridiciamo, è nato un movimento ispirato da noi, ma poi che ha preso una sua strada che adesso non condividiamo, ma che è quello delle città slow. Le città slow è nato dalla nostra ispirazione, ma adesso città slow sono dei luoghi assolutamente, alcuni di questi assolutamente invivibili, per niente slow, per niente che fanno parte della nostra filosofia. Ecco, noi siamo questo, non facciamo la foglia di fico, non siamo nati ieri, andiamo avanti per vedere che cosa c'è dentro, se è questa una risposta. Però preferisco invece di fare un intervento io, che magari mi facciate delle domande, mi fai ancora delle domande. Adesso facciamo magari. Grazie, veramente, perché comunque era importante Dopodiché io tra l'altro vivo ad Abbiategrasso e mi piacerebbe che il governatore di Slow Food renda pubblico, cioè nel senso adesso sono pubbliche queste robe qua, Abbiategrasso è una città slow e sicuramente posso confermare che insomma le contraddizioni vanno, cioè oltre le contraddizioni, nel senso che comunque abbiamo visto al di là proprio della qualità delle iniziative che organizzano per quanto riguarda il settore enogastronomico e per quanto riguarda l'agricoltura. Poi ci sono tutta un'altra serie di cose che non funzionano. Adesso magari facciamo intervenire gli altri, poi ci ritorniamo su questa cosa.